su Radio Oltre Po c'è Articolo 21. Con Andrea. Buon divertimento. Questa sera siamo puntualissimi. Un saluto a tutti da parte di Andrea, un saluto da parte di Radio Oltre Po. Un'oretta insieme con questo contenitore pre-serale dove parleremo un po' di tutto. E innanzitutto vorrei spiegare, insomma, ai nuovi amici che cosa stanno ascoltando. Inizialmente state ascoltando Radio Oltre Po. Questa radio trasmette ogni tanto in streaming, l'amo definire una web radio open source come Linux, poiché per le nostre trasmissioni utilizziamo tutti dei software gratuiti, non tiriamo fuori un soldo e quindi la radio è proprio fatta in stile anni 70, molto molto goliardica. E, insomma, questo è per quanto concerne la radio. Ora invece spieghiamo un pochino il programma, che si chiama Articolo 21. Giustamente i nuovi amici e non amiche si chiederanno: ma come mai questo nome un po' particolare? Sapete bene che ci sono gli Articolo 31 e noi invece abbiamo chiamato il nostro radio show Articolo 21, poiché si rifà a una legge della Costituzione italiana, per l'appunto l'articolo 21, che in poche parole dice che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il loro pensiero tramite lo scritto e la parola. La stampa non può essere soggetta a censure e a autorizzazioni. Quindi noi abbiamo scelto questo nome perché ci sembra quantomeno strano che in Italia non sia possibile, insomma, avere una legge differente che tutela i media locali. Anzi, aggiungo pure che le realtà locali sono veramente poche per via, insomma, di questa legge molto molto restrittiva che riguarda proprio le radio e televisioni. Però la nostra radio, nella piena legalità, trasmette, diffonde musica e permette appunto a uno speaker di intervenire. Spiegato questo, vi ricordo tutti i nostri vari contatti se volete essere grandi protagonisti con la nostra radio. Ci potete aggiungere nella lista dei vostri amici sul social network Facebook. Se invece volete essere informati sulle ultime novità concernenti la nostra radio, cercateci su Twitter e lì potrete leggere in tempo reale, insomma, quello che avviene all'interno di questo programma. Lo leggeranno anche gli amici di Facebook, perché ho praticamente collegato Twitter a Facebook, quindi gli amici di Twitter potranno leggere in tempo reale le nostre news. E stessa cosa vale per gli amici di Facebook, che magari ci stanno in questo momento ascoltando e potranno anche leggere in real time le news concernenti il nostro programma e concernenti anche la nostra radio. Mi sembra di aver spiegato tutto. Nei mitici anni 90 Albertino diceva una frase mitica: "It will go". Lo facciamo anche noi con la prima canzone, che è stupenda. Vi porto in discoteca con questo brano House. E senti qua che house veramente. La tipica musica dei locali, magari, che si permettono ancora il lusso di passare la house, magari con un po' di sonorità disco, eh. Vi ricordo che abbiamo anche una mail, se volete comunicarci qualcosa, radiooltrepo@live.it, radiooltrepo@live.it. Non mi sono ancora presentato, al microfono c'è ovviamente Andrea. Buona serata a tutti con la grande house music dei Radio Oltrepo Pavese. Stai ascoltando Radio Oltrepo. È stato tutto il fine settimana ad ascoltare, insomma, le canzoni di pubblico dominio più belle, e tra le tante per l'appunto c'era questa di Ultra Cut. House purissima veramente, ci fa ballare in questa serata. Salutiamo anche gli amici che ci ascolteranno in replica oppure direttamente il sabato e anche il venerdì nel weekend o nella radio, quando magari sarete in giro per locali, sottofondo giusto o direttamente dal vostro computer oppure anche sul vostro cellulare, sul vostro iPhone. C'è ancora qualche altro mezzo che consente la diffusione in streaming? Penso proprio di sì. E ora è giunto il momento proprio di leggere i titoli della provincia pavese. Giusto il tempo per mandare la basettina, perché faccio tutto da solo. E arrivano rapidi come sommergibili i titoli della provincia pavese di oggi. Eccoli qua i titoli della provincia pavese. Nel taglio alto, Vernavola, appello europeo. e dopo l'esposto il ricorso al TAR per fermare il progetto. Continua l'articolo a pagina 14. Questi sono solamente i titoli. Poi c'è un articolo nel taglio centrale sinistra ladri nella villetta, colpo di 20.000 euro tra oro, denaro e televisioni. Nel taglio centrale primeggia lo sport, il calcio. Al Pavia non basta la folla dei tifosi, addio al primato. Nel taglio basso, sempre a sinistra, una notizia che ci giunge da Voghera. Incidente in auto, feriti due giocatori della Vogue. Ci spostiamo invece nella parte centrale a destra, almeno come lo leggo io qua dal computer in live streaming. Coca per gli amici, scoperti e arrestati due giovani a Casei. Sempre nella parte centrale a sinistra, una notizia da Vigevano. Cassi integrati, allarme e la proposta della Lomellina, gruppello, presidio al... Qui non riesco bene a leggere, scusate. Nel taglio basso, Vigevanese preso a Pavia. Purtroppo possiamo solo leggere i titoli perché leggiamo la provincia pavese in versione web, ma come si suol dire, questo è il bello. Ora andiamo avanti con la musica, ritorneremo appena dopo con ancora grandi news e grandi successi. State con Radio Oltrepò. Bolero for Lovers Motives. Stai ascoltando la programmazione di Radio Tripò. Abbiamo ascoltato quel brano un pochino, diciamo così, retro, che ho gradito molto e mi auguro anche voi apprezzerete. Dopo i titoli della provincia pavese, ora diamo invece uno sguardo ai principali fatti del giorno reperiti dal quotidiano City, che trovate gratuitamente in giro per Milano, diciamo così. Tra gli articoli più interessanti io vorrei leggere questi: uno che riguarda ancora la politica, tanto per cambiare, e concerne il vecchio Ignazio La Russa, il buon vecchio Ignazio. Crea la nostra destra è una nuova area, non una corrente della PDL, precisa il ministro della difesa che l'ha battezzata Milano. Sarà un polo culturale per tutti gli ex AN che non vogliono seguire fili. Mi ricordo insomma La Russa quando militava anche lui insieme a Fini nell'MSI, con capelli lunghi e barbone che in parte faceva ricordare magari i giovani di sinistra come D'Alema. Ora invece ha cambiato completamente linea. Dalla politica c'è ora il fatto del giorno, che primeggia anche su questo quotidiano. Amanda Knox: sono innocente, triste e addolorata. Lo scrive dal carcere ai genitori la ragazza statunitense condannata in primo grado a 26 anni per il delitto di Perugia. La lettera è stata letta ieri sera nel corso di un programma di Rete 4. Ora invece c'è una notizia di musica: Samuele Bersani si vergogna di aver scritto Freak. Il cantautore rinnega la famosa canzone del 1995 e dice: la sento a studio aperto e nei programmi delle veline. Al concerto del 1° maggio dice, testuali parole: vorrei non averla mai scritta. Ora parliamo sempre di televisione con Pippo Baudo, sicuramente uno degli ultimi grandi presentatori della storia della Rai TV e non solo. Pippo Baudo afferma: sparirei dal video se il pubblico fosse stufo di me. Solo allora il conduttore 74enne a giugno lascerebbe la TV, dice a Domenica In. In autunno su Rai 1 lo attende la prima serata sui 150 anni della storia d'Italia, dell'Unità d'Italia. E poi facciamo tanti auguri a Marco Pannella, che in queste settimane ha compiuto 80 anni. Il leader radicale è nato a Teramo in Abruzzo il 2 maggio del 1930, deputato dal 1976, ancora ora spesso combatte per le sue lotte, per le sue politiche, con degli scioperi della fame. 80 anni. Auguri Marco. Un grande abbraccio anche da parte della redazione della nostra radio, da parte del sottoscritto. E Pannella rimane sicuramente uno degli ultimi grandi baluardi della politica italiana, da sempre esponente di spicco del Partito Radicale. Le sue idee di laicità dello Stato hanno saputo regalarci delle leggi che magari molti apprezzano o molti disdegnano, come potrebbe essere la legge sull'aborto, sul divorzio. Però il suo contributo è servito per donare alla nostra azione un po' più di laicità, che non guasta mai. Poi vi ricordo anche le sue battaglie negli anni 80 a fianco di Emma Bonino e degli altri, loro si definiscono compagni per le lotte sulla fame nel mondo. È stato ricevuto anche dal Papa per queste tematiche. Insomma, un politico controcorrente che ha sempre dato spazio a tutti. Il suo movimento ha ospitato anche ex comunisti, ex fascisti liberamente, che magari in altri movimenti non venivano considerati, ma insomma ha saputo regalarci tante belle, belle battaglie. Un'altra notizia, questa volta abbastanza simpatica, è polacco e ha 23 anni, il campione di Sudoku. È stato il migliore tra i 120 giocatori di 32 paesi che si sono sfidati ai mondiali a Philadelphia. Ha risolto 10 rompicapi numerici in 54 minuti e 4 secondi. Beh, era l'ultima notizia così curiosa reperita dal City. Tra poco guarderemo che cosa c'è di bello in televisione per quanto concerne la serata odierna. Andiamo avanti con la musica, balliamo tutti con un ennesimo grande brano. Ti ricordo, sei sempre in ascolto di Radio Oltrepò con Andrea ancora per un po'. Scusate l'errore, ma nessuno è perfetto facendo tutto da solo. Un brano in lingua marocchina. Lui è DJ Maroc One Star con il brano omonimo reperito da yamendo.com. One Star con l'omonimo brano che sta girando su Radio Oltrepò International. Un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano sul social network Facebook, un saluto anche a chi ci ascolta da Twitter. Rimanete con noi perché questo programma si chiama Articolo 21, alla conduzione Andrea, alla radio che state ascoltando è per l'appunto Radio Oltrepò. Ora uno sguardo invece ai programmi di questa sera per quanto concerne le TV analogiche. Ancora per poco, perché vi ricordo, se non erro, il 15 di maggio, almeno in Oltrepò Pavese e anche per il resto della Lombardia e per Piacenza, sia Rai 2 che Rete 4 spegneranno il proprio segnale analogico per trasferirsi sul digitale terrestre. Stavo dicendo sul satellite. Vabbè, satellite capitava qualche anno fa, quando è che c'erano le varie polemiche su Rete 4 se aveva il diritto di trasmettere o no. Si parlava di satellite, ora invece tutto è cambiato. Va bene, bando le ciance, i programmi di questa sera. Iniziamo da Rai 1. Alle 20.30 i soliti ignoti, gioco quiz condotto da Fabrizio Frizzi. Alle 21.10 il commissario Montalbano. 23.20 TG1, a seguire 23.25 Porta a Porta condotto da Bruno Vespa. Rai 2, vediamo cosa propone Rai 2. 20.30 TG2, a seguire Voyager, ai confini della conoscenza, con Roberto Giacobbo. Gran bel programma, aggiungo. Alle 23.10 TG2, alle 23.25 La storia siamo noi con Giovanni Minoli, ottimo programma di approfondimento con dei documenti d'archivio concernenti la storia d'Italia. Passiamo a Rai 3, 21.05 TG3, a seguire alle 21.10 Chi l'ha visto, conduce Federica Scerelli. Vediamo ora le reti Mediaset. Alle 20.30 canale 5 Striscia la notizia, a seguire alle 21.10 Italians Go Talent, dovrebbe essere uno show sempre di talenti. Italia 1 alle 20.30 Viva Las Vegas Quiz. Alle 21.10 Mercenary for the Justice Film. Alle 23.10 attenzione, tenetevi forti, amanti dell'horror, Film Hostel. Presumo sia Hostel 1, li ho visti entrambi e mi hanno fatto molto molto paura, nonché impressione per alcune scene molto molto crude. Non è un suggerimento per non guardarlo, però insomma, se siete abbastanza sensibili è meglio che non guardate questo film. Rete 4 alle 20.30 Walker Texas Rangers. Alle 21.10 il comandante Florent, non so come si pronunci di preciso. Alle 23.15 Squadra Antimafia Palermo Oggi, miniserie. Concludiamo con la 7 che propone alle 20.30 8.30, a seguire alle 21.10 L'Infedele con Gerd Lerner, presumo. Mi pare ci sia forse anche Giuliano Ferraro, ma non sono sicuro. Questi erano i programmi per quanto concerne le reti ancora per poco analogiche. Dopo questo bel brano di musica dance, questa volta la dance c'è veramente ed è molto molto house, parleremo invece dei canali Sky, della piattaforma Sky, che cosa propone per questa bella serata. Il prossimo brano è di Candy Panda. Candy Panda è il titolo del brano. L'artista è David Guetta su Radio Oltrepò. Stai ascoltando la programmazione di Radio Oltrepò. You read the Bible, Greg? Yeah. Well, there's this passage I got. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the children of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness. For he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. and I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brother. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Ghetto con Candy Panda, una canzone stupenda di musica house. Ho anche qualche brano di musica minimal, vediamo un po' se questa notte o questa sera, a seconda di quando ci ascoltate, riuscirò a programmarlo. E adesso che cosa c'è? Guardiamo velocemente i programmi per quanto concerne la piattaforma Sky Italia, vediamo cosa c'è di bello su Sky per questa sera. Una grossa novità su Sky Cinema 1 e anche su Sky Cinema più 1, alle ore 21 Natale a Rio, la mitica commedia natalizia Olcino e Panettone di Christian De Sica in prima serata su Sky Cinema 1 e vi ricordo le ore 22 invece su Sky Cinema più 1. Sky Cinema 24, le ore 21, Pet Therapy, Il cane per amico. A seguire alle ore 22:30 la verità è che non gli piaci abbastanza. Sky Cinema Family, il canale per tutta la famiglia, 304, alle ore 21 l'era glaciale. Alle ore 22:30 o giù di lì, FBI protezione testimone, una commedia poliziesca. Sky Cinema Hits, il canale dei grandi film in rotazione ogni giorno, canale 306. Alle ore 21, 27 volte in bianco, commedia bizzarra. Sky Cinema Max 309, questa notte, anzi scusate, questa sera, alle ore 21, Last Night, la morte nella notte. A seguire alle ore 22:40, pressappoco, Terrore dal deserto. Gli stessi film vengono programmati un'ora dopo su Sky Cinema Max più 1 310, scusate. Vediamo ora invece Sky Mania, alle ore 21 il film Il Dubbio. A seguire alle 22:40 circa, ricomincio da capo, commedia. Sky Cinema Italia, vediamo cosa propone il canale tutto italiano. Il fiore delle mille e una notte. A seguire un film di Nanni Moretti, Sogni d'oro, alle ore 23 circa. Sky Cinema Classics, cos'è, finite la base? La rimettiamo. Ecco qua, abbiamo rimesso anche la base. Sky Cinema Classics, abbiamo Grissom Gang. Niente orchidee per, non riesco a leggere, scusate. A seguire alle ore 23 circa Un americano a Parigi. Ora vediamo Cult, il film insomma che c'è in prima serata su Cult. Sul canale Cult alle ore 21 c'è Anche gli angeli mangiano i fagioli con Giuliano Gemma e Bud Spencer. Alle ore 23 L'ultima sfida di Bruce Lee. E concludiamo con il canale 320 della Metro Golden Mayer, che alle ore 21 propone Anna dei Miracoli. È tutto per quanto concerne i programmi di Sky TV Italia. Tra poco ritorneremo in onda ancora con grandi news. Ora, dopo tanti bei brani dance, ci rilassiamo un attimo con una grande voce e che per l'appunto vorrei proporvi in questa nottata, se ci ascoltate in diretta oppure se ci ascolterete in replica, non so quando sarà. Comunque vi ricordo che siete all'ascolto di Articolo 31, allora aspettiamo questa grande artista che si chiama Musetta, sempre reperita dal sito yamendo.com. Musetta ci propone Ophelia's Song, sicuramente tra le mie canzoni preferite di questo grande portale. Sei su Radio Oltrepò all'interno del programma presserale Articolo 31. Io sono Andrea. When I fall in love I get dizzy, I fall out, that's just a duty, a memory to draw me in. Still can't regret my big sin, though I acted a fool, my double becomer has been. Mm-hmm. Molto brava Musetta che ci ha proposto Ophelia's Song, questa canzone dai tratti molto dolci e molto raffinati. Stavo cercando una news da leggervi, ma purtroppo non trovo più il giornale, scusate, però me la ricordo a memoria ed è una notizia molto molto inquietante, poiché tocca ancora una volta le reti P2P, tipo Emule, dov'è che magari scaricate le canzoni. Mi sembra di aver letto che nell'università di Manchester è apparso un messaggio che invita i giovani universitari, i giovani smanettoni in informatica e soprattutto che bazzicano nelle reti per l'appunto tipo Emule, di per l'appunto utilizzare una major discografica per l'appunto questa major discografica cercherebbe persone per scovare i cosiddetti cittadini che usufruiscono dei servizi proprio tipo Emule per scaricare musica. E studiano veramente di ogni per cercare di fermare questo modo di scaricamento di canzoni, eccetera. Discorso un po' contorto, scusate, ma ho un mal di gola incredibile e vado a bermi immediatamente un goccio d'acqua. Per i prossimi minuti, Style. Lui è Camerer, che abbiamo già ascoltato, molto bravo, dalla Svezia. Sonorità molto molto interessanti. Style. Tile, sempre il mitico Kammerer che ci propone queste canzoni stupende, in bilico tra sound, lounge, dance. Ottimo produttore, se volete avere maggiori informazioni su di lui cercate su yamendo.com. Kammerer, scritto così, no, con la K davanti e le due puntini dieresi sulla Kammerer, e troverete circa 5-6 album di indubbio interesse che sicuramente apprezzerete. Leggiamo qualche altra notizia, una insomma non tanto buona, ci giunge da Parigi, reperite sempre dal quotidiano City. Due transessuali aggredite e assassate, pensate un po'. È accaduto in pieno pomeriggio nel parco di Belleville, nel cuore della capitale francese. Le trans insultate e assalite da tre giovani con sassi e bottiglie. Le transessuali sono due attrici portoghesi e hanno sporto denuncia. Vediamo qualche altra news, questa volta parliamo di squillo in vetrina come ad Amsterdam. Questo accade a Ginevra, nel quartiere a luci rosse della città svizzera. Un sex center consente alle professioniste del sesso di offrirsi da dietro un vetro trasparente, come nelle città olandesi che però poco alla volta si stanno chiudendo per una legge che mi pare sia entrata in vigore sull'età delle meretrici, che devono essere all'incirca maggiorenni, mi sembra dai 26 anni in su. A Londra invece il risultato del voto appariranno sul Big Bang, pensate un po', i risultati delle elezioni britanniche di giovedì, in gara i New Labour, i Tor e i Liberal Democratici, per la prima volta verranno proiettati in tempo reale sulla storica torre dell'orologio, per l'appunto il Big Bang. E ora sonorità ambient con questo bel brano, questo viaggio ambient, Ambient Voyage, Zero Page. Anche qua veramente siamo molto molto raffinati. Sei su Radio Oltrepò, articolo 21. Sull'iPod, sul cellulare, la musica di Radio Oltrepò. Voyage con Ambient Voyage. Spero abbiate apprezzato questo viaggio nel panorama ambient, un viaggio purtroppo molto molto breve, ma un grande grande disco che sicuramente vi riproporrò nelle prossime puntate di Articolo 21. E purtroppo siamo giunti al termine della nostra trasmissione, ma non temete, ritorneremo presto o in diretta oppure anche in differita con le nostre repliche. Io sono Andrea, un ringraziamento a tutti gli amici e tutte le amiche che ci hanno ascoltato in diretta streaming, un saluto anche a chi è che ci ha ascoltato in replica e salutiamo gli amici che ci hanno seguito su Twitter, su Facebook, oppure magari gli amici e le amiche che magari vogliono inviarci una mail al nostro indirizzo radiooltrepo@live.it. radiooltrepo@live.it. Queste sono le nostre coordinate, i nostri contatti per essere live anche voi con la nostra radio. Vi rinnovo quindi l'appuntamento alle prossime puntate di Articolo 21. Tra poco questa trasmissione verrà messa in versione podcast su un sito che si occupa per l'appunto di diffondere opere Creative Commons o opere di pubblico dominio, quindi le potrete tranquillamente scaricare. Comunque avrete tutti i dettagli del caso su Twitter e su Facebook. Abbiamo terminato, purtroppo noi andiamo a farci un girettino, salutiamo gli amici che magari ci ascolteranno nel weekend o nella radio, magari si stanno preparando ad andare in discoteca a ballare oppure nel vostro locale preferito. L'importante è che abbiate sempre il sottofondo o sul computer o sul cellulare oppure sull'iPhone la nostra radio. Radio Trepo sempre con voi, e Andrea si congeda con un grosso abbraccio. Alla prossima, vi lascio con l'ultima canzone che è la nostra sigla perenne del programma, troppo bella veramente per chi ama le cose raffinate. Crash fa per voi. Ciao ciao, alla prossima, bye bye, e ora Crash. Stai ascoltando la programmazione di Radio Trepo. Crushing me.